mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti o bentornati al podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, c'è Simone Spezia. Insieme ripercorreremo questa giornata, cercheremo di ricomporre i pezzi di questa giornata dal punto di vista, naturalmente, delle notizie. Vi ricordo i nostri contatti, effetto giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Vi raccomando anche di scrivermi, vi stiamo interrogando anche tramite la nostra pagina Facebook, ma potete scrivere anche una mail se volete, perché abbiamo intenzione di rivedere un po' la trasmissione anche nella sua versione dalle 13 alle 14. Stiamo ripensando qualcosa, niente di stravolgente, ecco, però un po' una rinfrescata, e vogliamo sentire anche i vostri suggerimenti. Già in tanti ci stanno scrivendo, fatelo anche voi. Naturalmente mi fa piacere, perché è, insomma, anche un modo per stare in contatto e sapere che cosa ne pensate. Di cosa parleremo oggi? Beh, in primo piano ancora gli esteri, e in particolare le vicende che riguardano l'Ucraina e lo scontro diplomatico che si sta accendendo tra Mosca e Londra proprio sul tema dell'Ucraina e sul tema degli altri paesi baltici. C'è la Libia, c'è stata l'approvazione ieri da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di una risoluzione che, come previsto e prevedibile, non prevede un intervento armato, quindi la situazione appare al momento di stallo. Parleremo di questo e sentiremo anche un commento tanto sulle vicende dell'Ucraina quanto su quelle della Libia. Per rimanere all'estero c'è la vicenda della Grecia. Che cosa succede? Che Atene ha mandato la sua proposta di piano di estensione dei prestiti per i prossimi 6 mesi, che dovrà essere discussa domani dall'Eurogruppo. E però nel frattempo la Germania ha già detto no. In merito alle questioni economiche ci sono altri due elementi importanti. Da una parte i rapporti dell'Istat e della Caritas, che ci parlano soprattutto di povertà e di condizione economica degli italiani. Dall'altra parte l'indagine dell'OCSE sull'economia italiana, un'indagine che sembra promuovere il nostro paese complessivamente, o quantomeno sembra promuovere le riforme del governo, in particolare la riforma del mercato del lavoro, e però ci dice anche di spingere un po' dal lato delle liberalizzazioni. La cronaca ci porterà a raccontare dell'indagine fiscale che riguarda Gino Paoli, ci porterà a raccontarvi delle intercettazioni, forse termine non proprio corretto, sono in realtà le telefonate registrate tra il 118 e la clinica nella quale è nata la bambina, la piccola Nicole, a Catania, in Sicilia, che poi, come sapete, è morta. E poi, sempre di cronaca, ma sul filo con lo sport, ci sono le attese per questa sera, quando 6.000 tifosi del Feyenoord invaderanno Roma. Già ieri, nella notte di ieri, ci sono stati degli scontri anche con la polizia a Campo dei Fiori. Correlate alle vicende libiche, correlata alla vicenda libica, c'è quella dell'immigrazione, dell'arrivo di immigrati sul nostro territorio. Tra le regioni che stanno avendo maggiori difficoltà in termini di accoglienza sembra esserci il Veneto, dove si scontrano apparentemente due posizioni, quelle di alcuni sindaci di città importanti come Treviso, come Vicenza, che sono di centrosinistra, e la presidenza della regione, che è leghista. Parleremo proprio con Luca Zai e sentiremo un'intervista al sindaco di Treviso. Infine la politica. La politica vede soprattutto i problemi interni a Forza Italia, che sembrano esplodere in queste ore, con Raffaele Fitto che torna all'attacco di Silvio Berlusconi, che nel frattempo ha commissariato il partito in Puglia. Iniziamo ed iniziamo dall'Ucraina con la cronaca di Gigi Donelli. Effettivamente che la tregua non si sia mai installata completamente, diciamo, era nelle cose. Ieri abbiamo raccontato del ritiro di Debaltseve, che rimaneva forse il nodo fondamentale lungo questo fronte di 300 chilometri. Il ritiro è stato effettuato, naturalmente ci sono state molte controversie sul numero di vittime e da una parte e dall'altra, ma di certo quello è stato in qualche modo svuotato. Ora, le violazioni che portano in particolare l'Ucraina a chiedere dunque una missione di peacekeeping nelle Nazioni Unite, insomma i caschi blu, immediata la reazione del Cremlino su questo punto, che si dice stupito il portavoce del Cremlino che venga una richiesta che non è in nessun modo prevista negli accordi di Minsk 2, invece lì si parla del ruolo dell'OSCE che ricordiamo è già presente sul terreno e sta svolgendo anche con enorme fatica un ruolo di controllo del rispetto delle tregue e degli standard minimi umanitari. Senti Gigi, tu ti trovi in queste ore in Finlandia, un paese che ha 1400 chilometri di frontiera con la Russia. Vorrei capire da te come stanno vivendo questa fase di tensione. Tra un attimo poi andremo anche a Londra per sentire che cosa è successo. Come avete sentito dai titoli, sono stati intercettati dei caccia russi sul cielo della Cornovaglia. Vorrei capire da te come si vive questa fase in Finlandia. Sì, qui ovviamente si parla moltissimo di Ucraina, se ne parla da un lato perché come potete immaginare 1400 chilometri sono di gran lunga la frontiera più grande tra l'Unione Europea e il mondo russo ex sovietico, ovviamente una storia che i finlandesi hanno imparato a gestire nel corso del tempo. Vale la pena forse ricordare che proprio l'OSCE nasce qui nel 1975 con gli accordi di Helsinki, in un paese che si è sempre impegnato a essere un ponte tra l'Oriente e l'Occidente. Ora, quello che accade appena a sud, a Tallinn, quindi in Estonia, un paese così vicino anche culturalmente alla Finlandia, ovviamente preoccupa molto. Ancora una volta i finlandesi stanno cercando di puntare sulla moderazione. Stamattina ne ho parlato con un noto ricercatore appunto finlandese, il professor Korkman, dovremmo forse poterlo sentire insieme in sottofondo, ed è emerso quello che è la preoccupazione per il dibattito intorno all'ipotesi di ingresso della Finlandia nella NATO. Ecco, se ne è parlato, è stato abbastanza uno shock nazionale perché la Finlandia non fa parte della NATO e l'ha fatto in maniera esplicita, nel senso che ha sempre ritenuto che proprio attraverso l'OSCE e altri sistemi sarebbe stata tutelata meglio la sua integrità con un così ingombrante vicino. Come si diceva, problemi anche con la Gran Bretagna, si sta accendendo un vero e proprio scontro diplomatico tra Mosca e Londra con le dichiarazioni del ministro della difesa, dichiarazioni che ci riassume il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Questa mattina è stata data grande evidenza alle dichiarazioni del ministro della difesa Michael Fallon, che ha definito in modo esplicito un rischio presente e reale quello che la Russia di Putin, cioè che il presidente Putin dia il via a una campagna di attacchi non militari, ma attacchi come capaci di destabilizzare la sicurezza dei paesi baltici, avviando una strategia analoga a quella che fece, secondo lui, da prologo poi alla campagna russa in Crimea e poi al sostegno delle milizie di Donetsk e Lugansk nella regione del Donbass in Ucraina. Leonardo, da una parte questa evidenziazione, questo evidenziare i timori per questi paesi, dall'altra parte poi un fatto che è avvenuto appunto proprio sui cieli britannici. Sì, è un fatto avvenuto ieri, ma in realtà è un fatto, sono fatti che si vanno ripetendo con una sconcertante frequenza, cioè due bombardieri russi Tupolev sono stati intercettati quando erano vicini, non all'interno dello spazio militare britannico, ma come dire, molto vicini. A quel punto è scattata immediatamente la difesa britannica con due caccia Typhoon che si sono alzati e hanno accompagnato i bombardieri russi più lontani dall'area, diciamo, di confine con lo spazio aereo. È già successo diverse volte, credo che siano state centinaia di episodi che riguardano tutti i paesi NATO, non soltanto la Gran Bretagna, ma con particolare frequenza nella vicinanza dei cieli inglesi. Si invocano le Nazioni Unite, come avete sentito, in Ucraina, le invoca il presidente ucraino Poroshenko. Le Nazioni Unite intanto si riuniscono per discutere di Libia. Viene approvata una risoluzione, non si prevede intervento armato come era probabilmente immaginabile. Laura Bettini. Non ci sarà alcuna coalizione internazionale contro l'ISIS in Libia, per ora non è nelle cose. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ieri ha deciso di prolungare in sostanza il mandato del mediatore delle Nazioni Unite, Bernardino León, ma se un giorno coalizione dovesse nascere, Mosca non esclude di entrare a farne parte, così ha detto l'ambasciatore russo all'ONU, Vitali Churkin, ricordando l'amicizia del suo paese con l'Egitto, un'amicizia che va detto è stata rimarcata molto di recente da accordi siglati tra i due paesi su nucleare, armi e lotta al terrorismo islamico. L'Egitto incassa anche l'amicizia e la soddisfazione in queste ore del premier libico di Tobruk, quello del governo che è riconosciuto all'estero, premier che però denuncia al contempo la poca collaborazione internazionale di fronte all'avanzata dell'ISIS, e lì ci si aspettava che si togliesse l'embargo alle armi sulla Libia e quindi che appunto il governo di Tobruk che potesse approfittarne. Contro i raid egiziani si è schierato invece il Qatar nelle ultime ore, che ha ritirato il suo ambasciatore dal Cairo e ora segue la linea internazionale della mediazione per il raggiungimento di un governo di coalizione nazionale in Libia, che è la stessa linea sulla quale si allineano anche gli altri paesi del Golfo, quindi contrapposizione di blocchi anche nel mondo arabo. Abbiamo raccolto un'analisi tanto sulla situazione in Ucraina e sui rapporti con Londra quanto sulla situazione in Libia. E l'analisi è di Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa e commentatore su questioni di difesa per il Sole 24 Ore. Io smorzerei un po' i toni sul fatto dei due bombardieri Tupolev 95 russi arrivati vicino alle coste britanniche. Sono cose che succedono da 70 anni, durante la guerra fredda gli aerei alleati occidentali si avvicinavano alle coste sovietiche, gli aerei russi lo facevano, lo fanno anche oggi, serve per testare le difese aeree della controparte, oggi non lo dico, e si fa di più nei momenti di crisi. Quello che stiamo vedendo in queste ore, questa rottura della tregua, sono schermaglie che precedono, secondo te, la tregua vera e propria, la pacificazione, o dobbiamo temere qualcos'altro? Diciamo che a mettere in difficoltà la tregua c'è la grande capacità militare dei separatisti russi, filorussi, che sono appoggiati da Mosca, di fronte alla quale c'è la grandissima debolezza politica, ma soprattutto militare delle forze di Kiev. Questo consente ai filorussi e a Mosca di spingere un po' più verso ovest le posizioni, le postazioni dei separatisti, per arrivare a una tregua che sia il più possibile favorevole, questa è l'interpretazione credo più corretta, ai separatisti filorussi. Io starei cauto nel dire invece che c'è un rischio di estensione delle pretese russe anche nei confronti delle repubbliche baltiche. Questi sono paesi tradizionalmente preoccupati da Mosca, vennero invasi dall'URSS nel 1939, quindi insomma sono paesi che hanno sempre avuto paura dell'Unione Sovietica e oggi della Russia. Non credo che Putin abbia nessun interesse a minacciare i paesi NATO, ha bisogno di riposizionarsi in maniera era favorevole alla Russia, invece in un'Ucraina che fino all'anno scorso era stabilmente nell'orbita russa, che dopo il Maidan invece è scivolata verso un'orbita filo NATO e filo europea. Gianandrea, un breve commento sulla situazione in Libia. Questa notte, come previsto e come abbiamo raccontato poco fa, la risoluzione delle Nazioni Unite non prevede alcun intervento militare o armato. La tua impressione è che sia necessario? La mia impressione è che ci sono una gran parte di paesi, anche grandi potenze, che non hanno nessun interesse a occuparsi della Libia e perché non ricevono nessun problema dal caos libico. Ci sono altri paesi che sono quelli vicini alla Libia, l'Italia, l'Egitto, l'Algeria, i paesi del Sahel, che invece hanno tutto l'interesse a occuparsi perché ricevono, perché subiscono direttamente ogni giorno dall'immigrazione al rischio terrorismo i problemi determinati dal caos libico. E tra questi paesi ce ne sono alcuni, come l'Egitto, che senza aspettare l'ONU intervengono anche con le armi e schierandosi per cercare di risolvere a loro vantaggio la situazione in quel paese, e altri come l'Italia che si appellano a un intervento ONU, che si candidano a guidare una missione ONU di cui peraltro non si vede nulla all'orizzonte, e questo lascia tutte le cose come stavano prima e non ci dà soluzioni che possano tutelare i nostri interessi nazionali. Altra questione parallela a questa, come si diceva, è quella dell'immigrazione. gli sbarchi proseguono, aumentano, probabilmente c'è anche una spinta da parte degli jihadisti a far sì che la gente, forse 200.000 persone a quanto pare, ammassate sulle coste libiche, queste persone partano, prendano il mare e vengano verso l'Italia. L'incremento di sbarchi è evidente e il sistema di accoglienza sta avendo dei forti problemi. Dunque abbiamo intervistato su questo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ma prima gli abbiamo fatto sentire l'intervista a un sindaco del PD della sua stessa regione, il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, e gli abbiamo chiesto un commento proprio su questo. Abbiamo evidenziato alla prefettura, alla regione, che non possiamo andare avanti con il criterio dell'emergenza, che è fondamentale dare delle risposte più strutturali e strutturate, perché altrimenti si creano veramente dei problemi, a parte umanitari per le persone che vengono accolte, ma anche di ordine pubblico, perché non è possibile che delle persone dormano in un pullman davanti a una stazione, in una città. Ecco, questa è una cosa inaccettabile. Lei è un sindaco di centrosinistra in una zona dove ci sono molte amministrazioni leghiste. Come va con i suoi colleghi? C'è una sorta di unità di intenti oppure no? Ci sono delle difficoltà oggettive, però anch'io e anche il sindaco Variati e altri sindaci, abbiamo, che anche lui è di centrosinistra, abbiamo sottolineato la necessità che ci sia un forte ripensamento della politica d'accoglienza da parte di tutti i soggetti, in primis della regione, come ho detto, ma anche dello Stato, che siccome inevitabilmente l'Italia è la frontiera d'Europa, dobbiamo pensare ad accoglienza non più come emergenza, ma come un dato, purtroppo, che è un dato abbastanza verosimile. Su questo abbiamo richiesto che sia l'Europa che in qualche modo ci dia effettivamente però la possibilità. Lei sa che su questo i tempi sono piuttosto lunghi. Che cosa intende quando dice che c'è bisogno di un maggiore supporto, di un maggiore coordinamento? Che cosa bisogna fare molto concretamente? Diciamo che molto praticamente bisogna pensare alcune cose che sono il criterio dell'emergenza. Abbiamo delle strutture che possono essere idonee ad accogliere magari da 8 a 16 persone, unicamente mettendo i letti a castello, che hanno delle strutture che hanno i bagni, hanno tutte le strutture igieniche in ordine, ma ci sono poi delle impossibilità ad accogliere, perché ci sono degli standard dati dalla regione che ci impediscono di accogliere queste persone. Basterebbe avere un attimo di elasticità mentale su questo e risponderemmo meglio al tema dell'emergenza. Allora Zaia, siete disposti a concedere ai sindaci questa elasticità mentale, come la definisce Manildo? Ci direi innanzitutto che il modello di ospitalità del Veneto è preso come riferimento a livello nazionale, sto parlando di immigrazione. E dico che trasformare un'operazione come quella di Mare Nostrum, che ha fatto arrivare circa 200.000 profughi in Italia, come una questione di elasticità mentale e di regole da modificare, direi proprio no. Guardi, non lo dico io, in Veneto abbiamo 514.000 immigrati, persone per bene che si sono integrate, hanno un progetto di vita. Siamo una delle regioni che ha una percentuale più elevata di immigrati nella popolazione, passiamo all'11%. E proprio per questo dico, noi abbiamo già dato, punto. E pensi che dei 200.000 disoccupati che abbiamo in questo momento, 42.000 sono immigrati. Però mi scusi Zaia, che cosa può fare? Chiudere i confini del Veneto, no? No, guardi, ma non glielo dico io, noi dobbiamo dire basta, ma non lo dico solo io, lo dicono i sindaci di sinistra, lo dicono i sindaci di tutte le colorazioni politiche, lo dicono addirittura i prefetti, non c'è più posto, perché poi giustamente voi non avete la memoria di quello che è accaduto nelle scorse settimane, ma dal Veneto si è sollevata anche la voce dei prefetti che hanno detto non mandatene più, questa è la verità. Poi se qualcuno dice modificando le regole peraltro che sono applicate a tutti i cittadini del Veneto, non capisco perché dobbiamo modificarle per qualcun altro. Modificando le regole, creiamo i centri di accoglienza, io dico no. Si può scegliere politicamente di dire di no. Dico che questi profughi vanno aiutati, ma assolutamente. Zaia, in termini di numeri, voi quanti ne accogliete al momento? Guardi, esattamente non glielo so dire perché stanno arrivando. Sicuramente abbiamo passato Penso che siamo intorno, forse 1000, 1500, non glielo so dire perché i dati non li conosco e non ho i dati aggiornati, però le posso anche dire che il vero tema è che si deve tener conto anche di quanti immigrati già abbiamo in Veneto, ripeto 514.000 su 4.800.000 abitanti, e aiutiamoli a casa loro, è una farsa questa di Mare Nostrum. Guardi, qualcuno dice che l'Africa non ha più chance per gli africani, mi scusi, Zaia, se la stanno comprando. Lei dice aiutiamoli a casa loro, però in questo momento lei capisce che se la casa è la Libia è oggettivamente piuttosto complicato, nel senso che c'è anche una questione: se la casa è la Libia, la Siria o l'Iraq, no, non è esattamente così semplice. Ma guardi, le dirò di più, capisco quello che mi dice, ma lei prima giustamente diceva nell'intervista al sindaco, ma alla fin fine è un problema europeo. No, l'Europa sta vivendo questo problema come un problema del confine italiano. Ed è caduta la linea con Luca Zaia. Mi interessava anche la posizione di un presidente leghista su questo argomento. Stiamo riprovando, c'è Laura Faggin che sta provando a ribeccare Zaia, vediamo se ci risponde o se è caduta la linea. Abbiamo di nuovo Zaia, ce l'abbiamo, eccoci qua, Zaia c'è? Pronto, eccomi qua. Eccoci qua, è caduta la linea. Cosa mi stava dicendo? Dicevo che scusatemi, mi è caduta la linea. Dicevo che Lampedusa è il confine d'Europa, non d'Italia. Abbiamo avuto sei mesi di presidenza italiana in Europa. Noi speravamo quantomeno che si risolvesse la partita dei profughi. E invece no. La partita della Libia, ma cominciamo a fare un'analisi e capire chi ha creato questo problema. C'è stato più di qualcuno che comunque ha gioito quando Gheddafi fu attaccato. Oggi ne paghiamo le conseguenze, noi lo dicevamo, guardate che non è così semplice questa partita. Dove sono i francesi che hanno tanto inneggiato a questi raid? Vi ricordo che in quel momento ad esempio la Germania si chiamò fuori. E queste sono tutte partite, poi il conto perché lo dobbiamo pagare sempre noi? Qualche notizia di cronaca più in breve, a partire dall'indagine fiscale che riguarda Gino Paoli. L'accusa sarebbe quella di evasione fiscale. L'indagine è partita dalla Procura di Genova. Secondo gli inquirenti, Gino Paoli avrebbe sottratto al fisco ingenti somme di denaro trasferendole all'estero. Gli accertamenti riguarderebbero 2 milioni di euro risalenti al 2008 e tenuti nascosti al fisco nella dichiarazione del 2009. Paoli era cliente del commercialista Andrea Vallebuona, arrestato assieme all'ex presidente Carige Giovanni Bernardi. Come per altri coinvolti nelle vicende bancarie, Vallebuona, secondo l'accusa, avrebbe aiutato Paoli a portare del denaro in Svizzera, sottraendolo al fisco italiano. E questo emergerebbe da alcune intercettazioni. In queste ore, si legge dalle agenzie di stampa, sarebbe anche in corso un blitz della Guardia di Finanza nella casa genovese del cantante, attualmente anche presidente della SIAE. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono aggiornamenti sulla questione di Nicole, sulla vicenda di Nicole, la neonata che è morta dopo essere stata rifiutata da tre ospedali a Catania, è andata a Ragusa. Non c'è ancora chiarezza su quando sia avvenuto il decesso della bambina. Di certo ci sono queste telefonate tra l'operatore del 118 e il medico della clinica nella quale è nata, telefonate nelle quali sembra che non si identifichi chiaramente il livello, la condizione nella quale si trova la neonata, il servizio. Ci sono ancora molte cose da chiarire nella storia di Nicole. Una è che la neonata possa essere morta in clinica nell'ora successiva al parto. L'altra, una storia di inciampi maldestri, la raccontano le registrazioni audio del 118 sull'emergenza scattata non appena la piccola è nata, senza che si trovasse un posto in terapia intensiva in quattro ospedali di Catania. Perché la piccola Nicole non è stata portata al pronto soccorso del Policlinico di Catania? A questa domanda ancora non abbiamo trovato risposta, ammette l'assessore alla salute Lucia Borsellino. E a una settimana dalla morte della bimba, oggi i funerali, i familiari di Nicole hanno un sospetto: che la neonata possa essere morta in clinica nell'ora successiva al parto. Per verificarlo stanno lavorando dei periti nominati dalla famiglia. Non ha dubbi il nonno. Si scopre anche che a Catania un posto libero c'era, ma era stato prenotato per la nascita prevista di un neonato con gravi patologie, che verrà poi ricoverato alle 2:05. Intanto gli inquirenti esaminano l'ultima telefonata del neonatologo. Sono le 3:48. Dall'ambulanza il medico chiama il 118. Il neonato da trasferimento, perché non abbiamo trovato posto a Catania, è deceduto. E l'operatore del 118 risponde: mi faccia capire. Lei adesso sta portando un neonato deceduto a Ragusa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per rimanere sulla cronaca, c'è quello che attende Roma per questa sera. 6.000 tifosi del Feyenoord in arrivo e rischi di scontri, rischi di violenze, violenze che in realtà ci sono state già ieri con una serie di arresti. Ce lo racconta Dario Ricci. Europa League, andata dei sedicesimi di finale, riflettori puntati sulla Roma che all'Olimpico cerca la vittoria casalinga che manca da un bel po' contro il Feyenoord Rotterdam, ma per il momento riflettori puntati soprattutto sulla cronaca, come dicevi, perché ieri sera a Campo dei Fiori scontri tra la tifoseria olandese e la polizia, 33 fermati, 23 arrestati, tutti ultra olandesi. Non sta funzionando di fatto quello che è il divieto di somministrazione di bevande alcoliche definito nei municipi 1, 2 e 15 della capitale. Perché? Perché gli olandesi, già arrivati in città, nient'altro hanno fatto che andare al supermercato e trovare tutta la birra che volevano. 6 gli agenti feriti, per fortuna lievemente, nelle cariche di alleggerimento di ieri sera. Speriamo che lo scenario non si ripeta questa sera, quando alle 19 le due squadre scenderanno in campo. Sono attesi circa 6.000 tifosi del Feyenoord Rotterdam, chiaramente massima allerta in città, con carabinieri e polizia disposti nelle zone sensibili, lungo Tevere, Maresciallo Diaz, il Ponte della Musica, Ponte Milvio, e chiaramente in caso di vittoria degli olandesi, ma chissà, forse in caso anche di sconfitta, rischio scontri nelle zone di Piazza di Spagna, Trevi e ancora Campo dei Fiori. Insomma, speriamo si possa parlare solo di calcio. Siamo all'economia. Economia che naturalmente non può non tener conto di quello che succede tra Grecia ed Europa, con la Grecia che invia il suo piano per avere più tempo, sostanzialmente altri 6 mesi di aiuti, e la Germania, prima ancora che si riunisca l'Eurogruppo, e questa è una questione che naturalmente farà molto discutere, prima ancora che si riunisca l'Eurogruppo dice no, questa cosa non ci va bene, lo fa con una dichiarazione pubblica del Ministro delle Finanze. Ci sarà tempo naturalmente per discutere di questo, ci saranno polemiche. Intanto noi veniamo all'economia italiana. Economia italiana che l'OCSE fotografa abbastanza positivamente, soprattutto dal punto di vista delle riforme. Andrea Viale ha seguito la conferenza stampa di presentazione del rapporto dell'OCSE, al quale c'erano anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il ministro del lavoro Poletti. Sentiamo il suo racconto. È appena finita, Simone, la presentazione di questo rapporto con il quale sostanzialmente l'OCSE promuove il piano di riforme economiche ed istituzionali che sono state intraprese, il piano intrapreso dal governo Renzi, un piano definito ampio ed ambizioso e che, una volta portato a termine secondo l'Istituto di Parigi, permetterà al PIL italiano di crescere di 6 punti in più nei prossimi 10 anni e porterà anche alla creazione di 340.000 nuovi posti di lavoro. Molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare, ha comunque sottolineato il numero uno dell'OCSE Gurria, che ha invitato ad attuare pienamente queste riforme, dando la massima priorità in particolare a quella del mercato del lavoro, il Jobs Act. Proprio sul Jobs Act, tra l'altro, il ministro del lavoro Poletti ha annunciato che domani il Consiglio dei Ministri approverà alcuni dei decreti attuativi. Sulla necessità di implementare le riforme ha concordato naturalmente anche il ministro dell'economia Padoan, secondo il quale il rapporto dell'OCSE indica che la strada intrapresa dal governo è quella giusta, e tra le varie riforme anche Padoan ha parlato di quella del lavoro, del Jobs Act. Sentiamo cosa ha detto, poi la linea può tornare allo studio. I benefici in termini di PIL, stiamo parlando di un 6% aggiuntivo di PIL rispetto a quello che l'economia senza riforme produrrebbe da sola, quindi è un beneficio gigantesco che con un nuovo mercato del lavoro produrrà più occupazione, e con più occupazione, oltre che più ricchezza, ci sarà anche più fiducia. Vanno in un'altra direzione i dati diffusi oggi dalla Caritas e dall'Istat. La crisi ci ha lasciato un vecchio continente a due velocità, secondo il rapporto Caritas Europa. Nei 7 paesi più deboli e vulnerabili, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Romania e Cipro, la situazione è ancora più critica della media dei paesi europei. Il rischio di povertà o esclusione sociale è al 31%, mentre nell'Unione Europea 28 e il 24,5. Per l'Italia il rapporto è addirittura del 28,4, oltre 1 su 4. Il dato è simile a quello quello diffuso dall'Istat sempre per il 2013, che parla del 23,4% di famiglie in disagio economico. Dal 2010, in 5 anni, l'intervento diocesano della Caritas nel nostro paese è raddoppiato, prima per integrare il reddito delle famiglie e poi per l'acquisto di beni di prima necessità. Certo, il valore più elevato si registra in Romania, 40%, ma l'Italia ha un altro triste record dopo la Grecia. I net giovani che non studiano e non lavorano sono oltre 2,5 milioni per la Caritas. Allarmante la povertà assoluta tra i paesi deboli europei, con punte massime in Romania e Grecia, mentre in Italia colpisce il 12,4% della popolazione. Sono oltre 10 milioni gli italiani disagiati, secondo l'Istat, 6 milioni i poveri assoluti. Anche il fronte occupazione critico, 25 milioni le persone senza lavoro in Europa. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo quasi in chiusura, ma prima un aggiornamento di politica. Aggiornamento di politica che riguarda Forza Italia, una battaglia, quella tra Fitto e Silvio Berlusconi, che sembra andare avanti senza soluzione di continuità. La cronaca di Elisabetta Fiorito. Forza Italia è sempre più spaccato. Dopo la rimozione del coordinatore regionale in Puglia, Francesco Amoruso, si dimettono in massa i coordinatori provinciali fedeli a Raffaele Fitto. Per arginare la fronda, ricordiamo, Silvio Berlusconi aveva imposto il commissario Luigi Vitale, uomo di fiducia dell'ex cavaliere. Con ciò si legge nella nota dei coordinatori azzurri dimissionario: liberiamo il commissario incaricato dall'onere di valutare il nostro livello di allineamento al nuovo corso, sgombrando il campo da qualunque equivoco circa la nostra coerente battaglia al fianco di Raffaele Fitto. Insomma, quindi una posizione molto netta, quella dei coordinatori a fianco dell'ex ministro e eurodeputato, che risponde al cavaliere: Berlusconi vuole epurarci, ma noi restiamo. Le mosse di Silvio sono un atto di debolezza. Da Forza Italia siamo diventate Forza Renzi, poi dalla sera alla mattina Forza Salvini, e la confusione, dice Fitto, regna sovrano. Temo che il nostro partito si stia trasformando in poco liberale e quelli di Berlusconi sono atti di debolezza. Ecco, quindi un'epurazione non riuscita, a quanto pare. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per averlo scaricato. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per avere gli aggiornamenti. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, nella quale vi stiamo chiedendo, tra l'altro, che cosa cambiereste della trasmissione, che cosa vi piacerebbe sentire di più dal punto di vista tanto dei temi quanto del format. Stiamo pensando di dare una rinfrescata e vogliamo sentire anche la vostra opinione. Fatelo là sulla nostra pagina Facebook. Se non avete Facebook, mi scrivete su Twitter, Simone Spezia, ma ancor più comodamente con una bella email a effettogiorno@radio24.it. Le leggo direttamente, quindi non c'è problema. Vi ringrazio per l'ascolto ancora e per aver scaricato. Ci risentiamo domani alle 13 e poi con il podcast.